Quello che sta succedendo è che sempre più lavoratori e lavoratrici migranti lavorano e poi con mezzi e trucchi vari vengono pagati meno o addirittura non vengono pagati. Io partirei dal presupposto che gli straordinari non pagati, i soldi tolti dalla busta paga, sono la quotidianità praticamente per i migranti e le migranti. Questo lo era anche prima della pandemia, però diciamo che l'aumento di casi di cui siamo venuti a conoscenza negli ultimi mesi è un indizio evidentemente che i padroni stanno cercando di scaricare una parte dei costi della crisi dovuta alla pandemia proprio su questo. Come coordinamento abbiamo iniziato una campagna con alcuni dei casi che ci sono stati riportati e che poi sarà resa pubblica con delle nuove uscite nei prossimi giorni, ma si va da tre ragazzi richiedenti un asilo che una volta usciti dall'accoglienza hanno trovato un lavoro anche con una certa urgenza, perché ovviamente avere un lavoro è l'unico modo per una volta usciti dall'accoglienza per poter affittare una casa eccetera, e scoprono che poi quel contratto era falso e che quindi alla fine di 2 mesi di lavoro non avrebbero visto nemmeno un soldo. Quando si sono rivolti al datore di lavoro se la voleva cavare con 250 euro a fronte di oltre 1.400 che erano dovuti, ma ci sono poi altri casi di soldi trattenuti dalla busta paga, uno dei migranti che lavorava per un'azienda edile nel giro di qualche mese addirittura ha ricevuto 3.000 euro in meno del dovuto, cioè questo conti alla mano facendo un calcolo di quanto c'era in busta paga e di bonifici ricevuti. E poi ci sono ovviamente i casi di diverse lavoratrici migranti, molte che lavorano soprattutto nel settore dei multiservizi, per le quali si aggiunge anche il fatto che spesso sono madri, quindi costrette ad occuparsi anche dei figli e che a maggior ragione in questo periodo hanno bisogno magari di orari di lavoro che si concilino maggiormente con queste ulteriori esigenze. Le aziende anziché concederlo fanno diciamo un uso creativo delle ore e dei piani orari, impongono di recuperare gratis quelle ore magari in un altro momento. Queste sono cose praticamente all'ordine del giorno. Quando non sono di questo tipo sono classico ricatto in cui lo straordinario lo fa oppure subito vieni sostituito da altri o altre. E anche su questo caso delle donne nei prossimi giorni uscirà un video dell'assemblea donne del coordinamento migranti. Questo comunque un po' è diciamo il quadro della situazione. Dal governo non ci sono state risposte e direi che non c'è da aspettarsi, nel senso che qui c'è un problema sostanziale di leggi. Se fin quando ci limita a fare delle modifiche minime le leggi Salvini, oppure come durante il primo lockdown, qualche regolarizzazione truffa in cui si dà tutto il controllo della situazione ai datori di lavoro, però rimane intatta la Bossi-Fini, quella legge che in breve dice ai migranti: per avere il permesso di soggiorno devi avere certi requisiti di reddito, di lavoro e quant'altro. Ecco, fino a quando quella legge resta intatta, la situazione è destinata a rimanere invariata. I sindacati fanno ovviamente quello che possono, nel senso che spesso i migranti si rivolgono al sindacato per risolvere questioni specifiche, giustamente, perché il sindacato ha magari gli strumenti legali e amministrativi per risolvere le specifiche vertenze, conciliazioni e così via. I migranti sanno anche che non è un problema dei casi specifici, delle vertenze specifiche, è una questione che ha a che vedere con la ricattabilità, cioè col fatto che devono lavorare per avere un documento e devono avere un documento per poter lavorare. E questo lo sanno anche i datori di lavoro, che ovviamente usano questo per imporre qualsiasi condizione di lavoro. Quindi con il sindacato i casi specifici magari si risolvono, ma poi nel senso che è successo anche per i casi riportati ci sono state delle soluzioni magari parziali, però il padrone poi può semplicemente fare avanti un altro, andare in un centro come il Mattei e trovarne tanti altri disponibili. Questo insomma è un po' il punto che come coordinamento migranti cerchiamo di attaccare direttamente, questo della ricattabilità e del legame tra il permesso di soggiorno e il lavoro. Quindi voi come coordinamento migranti chiedete l'abolizione della legge Bossi-Fini? La soluzione è chiaramente l'abolizione della Bossi-Fini, perché quello è l'unico modo per andare a colpire quel ricatto sul quale si basa il sistema che permette questo genere di cose. Poi nel frattempo ci sarebbero certo altre cose che si possono fare, come ad esempio si potrebbe chiudere il Mattei, no? Anche lì, oltre una questione di sicurezza per la salute dei migranti, mi parliamo di un bacino di manodopera per i padroni e per le agenzie interinali che funziona come una specie di dormitorio dove poi all'occorrenza si vanno a pescare i lavoratori. Negli ultimi mesi ci sono state diverse mobilitazioni di migranti a livello transnazionale, ad esempio quella del 17 ottobre scorso, dove siamo scesi in piazza anche a Bologna, dove sostanzialmente la richiesta che è stata portata avanti è quella di un permesso di soggiorno svincolato dai criteri di lavoro, di reddito, dalle logiche del ricongiungimento familiare e così via, quindi incondizionato e limitato, ma che soprattutto che non può nemmeno limitarsi ai confini nazionali, perché poi leggi come la Bossi-Fini esistono con altri nomi poi in tutti i paesi europei, quindi questo tipo di permesso di soggiorno non può che essere almeno europeo.